Ero solito andare a dipingere graffiti sotto il tunnel al Rasentello, un luogo dove i pochi vari del posto avevano dipinto. Il luogo era sulla spiaggia, ma appena entrata nel luogo sembrava di essere da un'altra parte. Il Rasentello era sporco, fangoso, bottiglie di birra spaccate, siringhe, spazzatura di ogni genere, ratti che scappavano verso il fondo del tunnel. Un tardo pomeriggio di gennaio, intorno alle 17:30, andai a fare il mio solito traguap, una roba da 5 minuti, cercando di non coprire i pezzi di Varietes più old school. Faceva freddo sulla spiaggia, ma dentro il tunnel si sta riparati. Era già buio e continuai a fare qualche tags, andando sempre più in fondo al tunnel, firmando qua e là, ma senza andare in fondo, dove era il punto più oscuro e non si vedeva quasi niente. Dai writers più grandi avevo sentito di sfuggita che avessero visto qualcosa, ma non stavano parlando con me. E poi, essendo più grandi, non osavo fare tante domande. Addentrato fino a quasi alla fine, vidi qualcosa muoversi. Mi mise a guardare fisso con la luce dello smartphone. Era una bestia, era un barbone. Sentivo un lamento come proveniente da lontano. L'essere poco visibile si avvicinava mezzo piccando. Vestito di baggy jeans sporchi, strappati, la felpa di un nero molto sbiadito, logoro, ma con il logo della 4Element. Capelli lunghi tutti all'insù, la barba folta, sentivo che mi parlava, aveva una voce angosciante, rauca, e il tono era molto grave, non capivo cosa dicesse. In un attimo mi prese per il giubbotto mentre io cercavo di fuggire. L'essere maledorante, sporco, mi aveva fatto cadere e tenendomi per il collo, con una montana vuota e tagliata a metà, con una latta acuminata, con una mossa ben precisa, mi squarciò il collo da lato a lato. Sanguinavo come una fontana. Vidi tutto nero e svenni. Plug continuò con lo spray dalla lamiera tagliente a squarciare con ira, pazzia e foga la gola di Kest. Urlava di piacere, tutto schizzato di sangue caldo sul suo lurido viso. Trascinò il corpo dalla gola lacerata, gettò il corpo in un pozzo fognario stretto e profondo. Plug si rintanò alla fine del tunnel, dove iniziava un buio e angusto condotto fognario. Plug sparì nell'oscurità più fitta, ma aspettava solo qualche toy da smembrare.